Buonasera a tutti e tutte, questa è Entropia Massima. Buonasera a chi ci ascolta dagli 87.9 MHz nella modulazione di frequenza, ma anche a chi ci ascolta da internet. Questa radio non campa d'aria, ricordo a tutti che è in corso una campagna per il nuovo abbonamento. Oggi tema tecnologico, desideriamo in apertura di trasmissione mandare un abbraccio particolare a chi ci ascolta dal carcere. Allora, eccoci in diretta per l'annunciata puntata tecnologica. Parliamo di intelligenza artificiale che per questa puntata vogliamo declinare insieme al tema delle disuguaglianze. Il 3 gennaio del 2020 è uscito un rapporto annuale di AI Now, AI Now Institute, che parla di utilizzi degli algoritmi di intelligenza artificiale che consentono alle macchine di prendere decisioni. Quindi sappiamo che per chi segue le nostre trasmissioni sicuramente lo sa, i sistemi di AI vengono adottati molto rapidamente in settori che hanno una notevole importanza sociale, per esempio nel settore sanitario, nell'istruzione, nell'occupazione, nella giustizia penale. Tutti questi sono settori estremamente delicati e al momento non sembrano essere state messe in campo delle adeguate garanzie. E quindi permangono diverse preoccupazioni e riflessioni aperte sul tema, ma forse anche una timida speranza di riuscire in qualche modo a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale verso il bene comune, per esempio. E diciamo che questo istituto AI Now è un istituto di ricerca interdisciplinare della New York University e appunto si occupa nello specifico delle implicazioni sociali che le tecnologie di intelligenza artificiale hanno. È stato fondato da Kate Crawford e Meredith Whittaker nel 2017 e dunque è a guida femminile, uno dei pochi istituti di intelligenza artificiale che è a guida femminile, ed è appunto interamente focalizzato sulle tematiche sociali. Anche questa è una sua peculiarità rispetto ad altri istituti di ricerca. Questo rapporto che è appena uscito contiene quindi una serie di raccomandazioni per chi? Beh, sicuramente per i governi, per il mondo dell'industria, per il mondo della ricerca, ma aggiungiamo noi senz'altro anche per tutti e tutte noi. Il gruppo di studiosi ha analizzato cosa sta accadendo nel panorama dell'intelligenza artificiale e quali sono gli impatti politici ed ecologici che potremmo avere. Sì, ci sono anche quelli ecologici di cui abbiamo parlato raramente, in questa puntata forse potremmo recuperare. Nel 2018 il rapporto si era concentrato soprattutto sui temi di responsabilità e quindi si era sostanzialmente tracciato una catena di responsabilità in caso di danni provenienti dall'applicazione di questi sistemi intelligenti e anche il modo in cui poter rimediare a questi danni, chi era responsabile e come avrebbe potuto rimediare. Mentre nel 2019, cioè l'anno oggetto del rapporto appena uscito, le riflessioni dei gruppi di lavoro si sono invece incentrate sulle potenziali applicazioni rischiose o pericolose dell'intelligenza artificiale. Quindi utilizzi di algoritmi che consentono sostanzialmente di prendere decisioni, questo è il tema importante, prendere decisioni su che cosa? Beh, sicuramente su questi quattro ambiti: forza lavoro umana, no? e questo sicuro è un tema molto importante, molto sentito. Definizione di benefici e di servizi sociali, quindi definizione del welfare, quali sono i servizi, chi debba usufruire di questi servizi, con quali modalità, ecco, prendere decisioni anche in questo ambito. Terzo ambito, sulla sorveglianza, e questo chiaramente è da sempre un osservato speciale. Quarto ambito, sul monitoraggio degli immigrati e dei rifugiati. Infatti anche su questo le riflessioni sono purtroppo ancora scarse, ma recuperiamo sicuramente grazie a questo rapporto, perché è ovviamente un tema estremamente delicato. Quindi diciamo che un'altra cosa che emerge chiaramente è che l'intelligenza artificiale sta allargando la diseguaglianza sociale, ecco perché dicevo che il tema odierno riguarda la IA declinata come crescita della disuguaglianza economica e sociale. E quindi sicuramente il tema che noi conosciamo bene in radio, trattato tante volte, non solo in questa trasmissione, delle informazioni che vengono immesse nel possesso e nel controllo di soggetti che hanno già una capacità di potere molto elevata rispetto a chi non ce l'ha, e quindi questo genera una diseguaglianza che non è solamente in termini di dati, ma proprio in termini di potere, di controllo e anche di denaro, quindi anche una diseguaglianza sociale, come vedremo. Le indicazioni contenute nel rapporto sono state raccolte dai tecnici che sviluppano gli algoritmi, dalle aziende che mettono a disposizione queste tecnologie e dall'ambito politico, cioè chi ha la responsabilità di legiferare sul metodo. Vediamo quali sono i punti chiave. Gli algoritmi utilizzati sul posto di lavoro, tema fondamentale, quindi questo aumenta la asimmetria tra lavoratori e datori di lavoro. È facile immaginarlo: se un'azienda investe molto per ottimizzare al massimo i propri benefici economici, chiaramente questo estremizza l'adozione di sistemi che possono poi mettere all'angolo i lavoratori. Quindi sistemi, facciamo degli esempi più concreti. Un'azienda ha bisogno di fare colloqui e di fare onboarding, cioè di assumere persone. Ci sono dei sistemi automatici che vengono utilizzati per effettuare colloqui e per stabilire se una persona debba essere assunta o no, e questo è piuttosto delicato, no? Affidare la decisione a una macchina, no? È un aspetto critico. Produttività della persona, altro esempio, e qui è facile da dire, chiaramente l'adozione di questi sistemi va ad incidere direttamente sulla produttività della persona e quindi di qui lo squilibrio. Terzo ambito, l'impostazione e la programmazione dei salari, anche questi vengono decisi sulla base di algoritmi di intelligenza artificiale, e la cosa non è assolutamente tranquilla, non è una cosa, diciamo, che può passare così. Altri punti chiave riguardano le politiche discriminatorie, per esempio tutte le applicazioni che sono riconducibili al riconoscimento facciale. Anche nell'ambito dell'edilizia abitativa, no? C'è la necessità di riconoscere chi entra negli edifici e questo può portare senz'altro anche a discriminazioni basate su etnie o razze, no? Dalla faccia. Ci sono dei progetti di legge negli Stati Uniti di cui AI Now, questo istituto, si è fatto promotore. In particolare c'è il Facial Recognition Technology Warrant Act, e quindi e il No Biometric Barriers Act del 2019. Questi sono stati appunto due progetti di legge. Il dibattito si allarga anche al di fuori degli Stati Uniti. In Gran Bretagna, diciamo, c'è molta preoccupazione rispetto all'uso di queste tecnologie, l'uso indiscriminato e non regolamentato di queste tecnologie da parte della polizia. E in Australia il Parlamento ha proprio decretato una pausa completa perché l'utilizzo, diciamo, di riconoscimento facciale e di volti non è un argomento che può essere discusso in breve tempo, quindi hanno proprio fermato le cose. Altro ambito importante, l'ambito delle smart cities. Le smart cities ci consentono di consolidare, consentono, diciamo, a chi le gestisce di aumentare il numero di dati e di informazioni che sono relativi alla vita civile delle persone, quello che le persone fanno, come si muovono, cosa scelgono, no? Che frequentano, piuttosto che tipi di comportamenti hanno all'interno di una città, all'interno di un particolare processo di una città. Questi dati sono ovviamente messi in mani di società private che hanno quindi scopo di lucro, e la cosa non è esattamente normale. Per esempio, anni fa c'era stato questo progetto americano Sidewalk Labs, un progetto di innovazione urbana che aveva promosso un punteggio di credito per i cittadini, che poi era gestito anche da un'azienda privata, quindi chiaramente sono esempi piuttosto lampanti. Altro ambito: amplificare la disparità di genere e razza. Anche su questo l'intelligenza artificiale può incidere. Per esempio, c'è tutto il tema del riconoscimento degli affetti e delle emozioni. Questo è un tema diverso da quello del riconoscimento facciale, cioè in qualche modo legato, ma qui si cerca di riconoscere quali sono le emozioni provate dalle persone che vengono immortalate e quali sono i loro affetti. E questo può avere delle applicazioni, per esempio, nel campo dell'intrattenimento. Se guardi un film o una serie TV, poter sapere quando sei quando hai dei sentimenti di apprezzamento o di disgusto può essere utile per calibrare meglio l'offerta. Bene, perché allora ci occupiamo di questa cosa? Beh, perché alcuni mesi fa è stato portato davanti al Comitato sulla Finanza del Senato americano un caso in cui questi algoritmi agivano in modo sessista, e quindi si è voluto indagare su come erano stati fatti gli sviluppi di questo sistema, visto che i risultati avevano un segno sessista. E niente, un altro tema importante che viene sollevato è quello di arricchire il più possibile i set di dati, di completarli, quindi fare quello che si chiama debiasing, cioè togliere il bias, cioè una distorsione che poi può portare a dei risultati errati, quindi quantomeno cercare di farle bene queste analisi. E quindi l'idea dell'apprendimento, l'apprendimento può essere corretto, perché questi sistemi funzionano così: all'inizio devono apprendere, tramite un set di dati apprendono, e poi agiscono in maniera autonoma e sono in grado di prendere decisioni in maniera autonoma. Se si nota che c'è un bias, quindi se c'è un risultato non oggettivo, beh, si può riprendere in mano l'apprendimento, ci dice AI Now, e quindi si può aggiungere dati. In ogni caso, anche l'analisi degli affetti tramite riconoscimento faciale, quindi microespressioni del nostro viso che aiutano a comprendere quali sono i nostri sentimenti, non dovrebbe essere utilizzato nelle applicazioni dove un pregiudizio può cambiare la vita di una persona. Ecco, appunto, il colloquio di lavoro è l'esempio più lampante. E inoltre, fra l'altro, diciamo anche una cosa: che questo tipo di applicazioni ancora non hanno una solida base scientifica, quindi i risultati non sono accurati. Ciò non significa che non lo saranno mai, prima o poi succederà che saranno accurati. Fino a quel momento bene così, se riusciamo a interromperli, però sappiamo che comunque, anche se fossero accurati, genererebbero comunque dei problemi rispetto al tipo di applicazione che è totalmente deregolata al momento. E infine, dicevamo, c'è anche il discorso dell'impatto sul clima. Allora, non si cita mai, e invece nel rapporto c'è: la creazione di un modello di intelligenza artificiale per elaborare un linguaggio naturale, pensate, un linguaggio naturale, mettiamo l'italiano, no? Può arrivare ad emettere fino a 270 tonnellate di anidride carbonica. Ecco, questi sono conti che vengono fatti, quindi non è tutto light, è tutto virtuale, è tutto nella cloud, come si potrebbe dire. No, sono cose che hanno un impatto molto tangibile, molto materiale, e c'è anche modo di fare quindi stime di questo genere. Quindi sostanzialmente il rapporto parla di raccomandazioni, e quindi, come abbiamo già detto, il riconoscimento degli affetti non dovrebbe essere usato in decisioni che riguardano essere assunto in un lavoro, qual è il premio da pagare per un'assicurazione, qual è la valutazione del dolore di un paziente in un'applicazione sanitaria, o qual è la prestazione degli studenti a scuola. Ecco, usarli in questo campo assolutamente non si dovrebbe fare. Così come non dovrebbe essere utilizzato il riconoscimento facciale all'interno di social network e dei contesti politici, ma sappiamo che comunque viene fatto, però la raccomandazione c'è di non farlo, ma sappiamo che tanto viene fatto perché non ci sono regole. Quindi abbiamo detto che c'è anche il discorso del razzismo, del sessismo, della mancanza di diversità, e quindi insomma di raccomandazioni ce ne sono diverse. In generale, quindi, c'è un rimando ad una rigorosa analisi della situazione da parte della politica e delle conseguenze che l'intelligenza artificiale può avere come impatto sociale, come impatto climatico, anche come diritti dei lavoratori. E quindi si dice nel rapporto che i lavoratori dovrebbero avere il diritto di contestare l'intelligenza artificiale se, virgolette, sfruttatrice, cioè se sostanzialmente invade il campo del lavoro delle persone e con il discorso dell'ottimizzazione tende a spingerle oltre dei limiti diciamo corretti. Basti pensare a quello che succede con i lavoratori che portano i cibi pronti nelle case, no? I vari ce ne sono diversi di contenitori che fanno questo mestiere. I lavoratori si chiamano i rider, no? Non a caso si chiamano i rider. Ecco, lì è proprio un caso proprio molto, molto chiaro, perché c'è una gestione automatizzata del lavoro, delle varie commesse, delle varie consegne che devono essere fatte. E quindi questo può portare a, appunto, stress psicologico, e bisogna monitorare continuamente la situazione, stabilire anche insieme ai lavoratori quali sono gli obiettivi di produttività accettabili, perché se si pensa solo a farli alti, possiamo andare avanti all'infinito, a un certo punto c'è bisogna comunque fermarsi. E poi c'è tutta una parte sulle leggi sulla privacy che pure sono importanti, dicono cose che noi abbiamo sempre detto e insomma pongono l'attenzione sulla sorveglianza, sulla localizzazione, sulla profilazione anche tramite riconoscimento facciale, eccetera. Quindi ecco, questo diciamo una prima parte in cui vi volevo parlare di questo rapporto. Anche un pochino per inquadrare il tema. Adesso vi faccio ascoltare un brano, facciamo un po' di pausa, che ho chiacchierato abbastanza, e ci risentiamo dopo la pausa per analizzare il tema della disuguaglianza, come dicevamo. Quanto dura un'ora? Quanto dura un'ora? La complicità è saper decidere se complicare tutto, se invece lasciar correre, non scendere prendendo il giusto. Come se i giorni fossero telai con pozzi di pensieri in mezzo. Se solo sapessi io difendermi da quello che vorrei, discuterne, rifletterci, che poi non si sa mai. Non serve la chiarezza quando già l'equivoco è un successo. Niente più fede ed un ricordo che resta, della nostalgia che appena riesce ti inganna. Se davvero il tempo tocca solo chi ha fretta, allora chiedi all'infinito quanto poco gli importa. Quanto dura un'ora? La libertà non è un fiero regalarsi al mondo, perdersi e poi ricredersi, lasciare i desideri a buono. Far spegnere un'idea un attimo prima che diventi un chiodo fisso. Non fosse facile nascondersi dietro un pigro, non potrei far finta di confondersi, tanto poi non si sa mai contraddire il calore della noia per un brivido d'incanto. Mettete in fede un ricordo che resta nella nostalgia che appena riesce ti inganna. Se davvero il tempo tocca solo chi ha fretta, allora chiedi all'infinito quanto poco gli importa. Quanto dura un'ora? Quanto dura? Mentre più fedele del ricordo che resta, della nostalgia che appena riesce ti inganna. Se davvero il tempo tocca solo che ha fretta, allora chiedi all'infinito quanto poco gli importa. Quanto dura un'ora? Allora, torniamo in diretta. Questa era Malika Ayane in un live. Quanto dura un'ora? Stiamo parlando di intelligenza artificiale e disuguaglianza. In questa seconda parte di trasmissione veniamo un po' al tema della disuguaglianza. Sappiamo che è uscito proprio oggi il consueto report di Oxfam, che generalmente precede il meeting annuale del World Economic Forum di Davos. E il report sulle disuguaglianze, e diciamo che abbiamo già letto, è stata data la notizia oggi insomma in maniera abbastanza diffusa, e quindi conto sul fatto che già in tanti e tante l'hanno letta. Le fortune dei super ricchi sono aumentate del 12% al ritmo di 2,5 miliardi di dollari al giorno, mentre 3,8 miliardi di persone hanno visto decrescere quello che avevano dell'11%. E notare che appunto questo rapporto ormai è atteso ogni anno e quindi funge anche da trend. Nel 2018 erano 26 gli ultramiliardari che possedevano l'equivalente ricchezza della metà più povera del pianeta, l'anno precedente erano 800, e quindi già questo è un dato molto molto importante che ci dà l'idea di un trend. Quest'anno proprio non hanno più potuto fare con il 50% e quindi hanno fatto col 60%, e quindi oggi abbiamo 2153 super ricchi che detengono una ricchezza superiore al patrimonio di 4,6 miliardi di persone, che appunto è il 60% della popolazione. E quindi da un lato ricchezza, dall'altro povertà. La metà più povera della popolazione resta a meno dell'1% della ricchezza complessiva. Un altro dato importante che è uscito quest'anno in questo rapporto riguarda le donne. Infatti il patrimonio delle 22 persone più facoltose del mondo supera la ricchezza di tutte le donne del continente africano. Questo è anche un altro dato molto importante, che sottolinea anche l'aspetto delle discriminazioni, della disuguaglianza di genere, quindi non solo quella sociale. Tutti temi che, come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, sono assolutamente pertinenti, no? con i rischi connessi all'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale. Vediamo altri dati così per completare un po' la ricognizione sul report. A livello di patrimoni, l'1% più ricco deteneva a metà del 2019, il report viene fatto sui dati dell'anno precedente, quindi si riferiscono a metà del 2019, ebbene l'1% più ricco deteneva il doppio della ricchezza netta posseduta da 6,9 miliardi di persone, dal 90% delle persone, e mentre la quota della ricchezza della metà più povera dell'umanità non sfiorava nemmeno l'1%, e questo riguarda i patrimoni. Sul reddito, il 46% di persone vive con $5.50 al giorno, $5.50 al giorno, quasi la metà delle persone nel mondo. Poi c'è il discorso sul lavoro di cura non retribuito, che riguarda specialmente il femminile. Vale oggi 3 volte il mercato globale di beni e servizi tecnologici, pensate. Se prendiamo quindi il mercato di beni e servizi tecnologici, uno dei mercati più ricchi, più in ascesa, no? Ma proprio a livello di volume molto molto grande, e lo moltiplichiamo per 3, otteniamo quindi il valore del lavoro di cura, lavoro che non viene retribuito, e quindi riguarda il 42% delle donne che nel mondo lo svolgono senza retribuzione. Velocemente, anche in Italia il 10% dei lavoratori con retribuzioni più elevate supera la metà dei lavoratori italiani con retribuzioni più basse, e un altro dato molto importante è che il 10% dei lavoratori con retribuzioni più elevate costituisce il 30% del reddito da lavoro totale, questo è molto importante, quindi, mentre l'altro, cioè quello della metà dei lavoratori più poveri, non arriva al 26%. L'ascensore sociale quindi è chiaramente fermo nel nostro paese, questo lo sappiamo. Si calcola che per i discendenti, quindi figli, nipoti, del 10% più povero ci vorrebbero 5 generazioni per arrivare a percepire il reddito medio nazionale italiano. E anche qui un po' di trend, la ricchezza dei più facoltosi è salita del 7,6% in Italia e quella del 50% dei più poveri si è ridotta del 36,6%, cioè sono dati veramente insomma che si commentano da soli. C'è un indice che si utilizza per capire quanto uno Stato è o meno presenta o meno diseguaglianze sociali, si chiama l'indice di Gini. In Italia siamo passati dal 23° posto nell'Unione Europea al 28° posto nell'Unione Europea, quindi significa che il nostro paese presenta delle diseguaglianze sociali che crescono sempre di più. E poi si parla anche degli abbandoni scolastici, che pure stanno crescendo, e peggio di noi fanno solo Spagna e Romania. E mostrano comunque un trend costante di riduzione nel tempo. Insomma, questi dati, diciamo, potremmo continuare ancora a lungo, ma diciamo che ci fermiamo qui e proviamo a ragionarci sopra. Proviamo a fare, grazie al supporto di Yuval Harari, autore che più volte abbiamo utilizzato in queste trasmissioni e citato nelle nostre trasmissioni, proviamo a fare un escurso storico delle diseguaglianze. Negli ultimi decenni ci è stato detto che il mondo andava verso l'uguaglianza. Negli anni 70, 80, 90 ci è stato detto questo. Ci è stato detto che grazie alla globalizzazione e grazie alle nuove tecnologie avremmo diminuito le disuguaglianze. Al contrario, ci ritroviamo nel XXI secolo in un'era che è la più iniqua della storia. I dati che vi ho presentato prima ci dicono esattamente questo. Mai nella storia c'è stata una iniquità come in questo momento. E continua Harari, probabilmente ci avviamo verso un peggioramento verticale della situazione che potrebbe portarci addirittura alle caste, e in particolare alle caste biologiche, come vedremo fra un po'. Ma partiamo per questo breve escurso storico. Età della pietra, 30.000 anni fa, avevamo cacciatori raccoglitori che vivevano in una società priva di proprietà privata, quindi questo sappiamo che la proprietà privata è un presupposto per l'ineguaglianza a lungo termine, e lì non v'era, i cacciatori raccoglitori non ci avevano la proprietà privata. Ciò nonostante, nelle tombe abbiamo trovato perle di avorio, braccialetti, oggetti d'arte vari in alcune tombe, ma nella maggior parte delle altre un buco in terra. Quindi già allora sicuramente c'era una diseguaglianza piuttosto netta. Poi arriviamo all'era agricola, dove viene appunto introdotta la proprietà privata, che amplifica queste ineguaglianze che già c'erano, e la proprietà privata si riferisce a terra, animali, utensili, che erano insomma ciò che occorreva per la produzione agricola. Emerge come conseguenza di questo subito una società gerarchica. Le elite monopolizzano ricchezza e potere generazione dopo generazione. Questo viene accettato come assolutamente naturale, o addirittura divino, cioè giustificato da un punto di vista divino. Quindi la gerarchia, che non solo è la prassi ma è addirittura l'ideale, è impossibile vivere senza gerarchie, è giusto che ci siano aristocratici e cittadini comuni, è giusto che ci siano uomini e donne, è giusto che ci siano genitori e figli, preti, filosofi e poeti spiegavano che gli uomini non sono tutti uguali. Quindi c'è il classico discorso di Menenio Agrippa sull'uso della testa e delle mani, e l'idea generalizzata che l'uguaglianza genera caos. Recentemente, in tempi più moderni, l'uguaglianza invece è diventato un ideale, chiaramente anche sulla spinta dei movimenti socialisti, comunisti, anarchici, ma anche sulla spinta liberale. La rivoluzione industriale ha dato un chiaro messaggio, le masse hanno assunto una importanza che non avevano precedentemente nella storia, quindi l'industria per poter funzionare aveva bisogno di operai, e le guerre per essere fatte avevano bisogno di soldati, operai e soldati, questo serviva, e queste persone hanno assunto un'importanza. Quindi si è introdotto il concetto di dare salute, dare educazione, dare welfare, perché dovevano stare bene e in salute gli operai per lavorare, dovevano stare bene e in salute i soldati per fare la guerra. Va detto anche che il XX secolo ha senz'altro migliorato le cose per quanto riguarda classismo, razzismo e sessismo. Può sembrare diciamo un po' sopra le righe questo commento, ma in realtà, se noi facciamo un'analisi storica e prendiamo l'anno 2000 e l'anno 1900, diciamo che in effetti un miglioramento sicuramente c'è stato nei posti che hanno visto l'imporsi della rivoluzione industriale, dell'industria e di tutto quello che è, diciamo, l'era contemporanea. Addirittura si è arrivati a pensare che tutto sarebbe andato verso un miglioramento. Appunto, la globalizzazione avrebbe reso gli egiziani o gli indiani come gli svedesi o i canadesi, e invece non è stato assolutamente così. Non vi ho letto prima altri dati che riguardavano le zone geografiche, ma li possiamo ben immaginare. Anche su quelle la sperequazione è micidiale e colpisce zone precise del pianeta in modo implacabile e privilegia tutte altre zone. Ora siamo arrivati quindi al punto in cui cosa può fare l'intelligenza artificiale in un contesto del genere? Beh, può diminuire ulteriormente il valore economico e quindi anche il valore politico della gran parte degli uomini, no? Questo l'abbiamo visto durante queste puntate. E se verrà associato, come già si sta facendo a livello di ricerca, la biotecnologia alle tecnologie di intelligenza artificiale, queste diseguaglianze economiche potrebbero addirittura diventare biologiche. Cioè, fino adesso i super ricchi, quelli che abbiamo citato prima del rapporto Oxfam, hanno comprato degli status symbol con la loro fantastica ricchezza, non hanno trovato altro da comprare che oggetti che rappresentano status symbol. Ora possono cominciare a comprare estensioni della vita e quindi avere una vita più lunga, o addirittura possono comprare dei miglioramenti delle proprie qualità fisiche o dei miglioramenti delle proprie qualità cognitive. Ecco, in questo senso Harari parla di caste biologiche. Questo è ovviamente uno scenario tremendo, in realtà, se ci pensiamo bene, non è così improbabile, soprattutto se consideriamo la velocità con cui tutto questo sta succedendo senza che la maggior parte delle persone se ne renda conto. i ricchi, gli aristocratici un tempo pensavano che avevano delle abilità superiori a chiunque altro e quindi questo avrebbe legittimato il loro dominio. Questo era evidentemente falso. Il marchese medio non aveva nulla di diverso dal contadino medio e la sua superiorità era dovuta solo all'esistenza di un sistema ingiusto con discriminazioni legali e discriminazioni economiche. Entro il 2100 è possibile invece che i super ricchi siano davvero più talentuosi di tutti gli altri, abbiano più talento, più creatività, più intelligenza, siano proprio biologicamente migliori. Questo succederà se la biotecnologia e l'intelligenza artificiale lavoreranno insieme e proporranno quindi soluzioni per creare dei superumani da un lato, e dall'altro chi non potrà permetterselo resterà una massa di Homo sapiens inutili, completamente inutili. E c'è da chiedersi cosa farà quindi lo Stato rispetto a queste persone, questa enorme massa di inutili. Investirà ancora nella loro salute? Investirà ancora nella loro istruzione, nel welfare? Prima quelli dovevano stare in fabbrica e dovevano fare i soldati, ma adesso? Dipendiamo dalla loro magnanimità, all'inizio potranno farlo, magari all'inizio le elite vorranno fare questo, ma a un certo punto si creerà un momento di crisi oppure un momento di catastrofe ecologica, tutt'altro che improbabili entrambe queste cose, e magari stati come la Nuova Zelanda e la Francia un po' resisteranno e continueranno a fornire salute, istruzione e welfare per tutti, anche per quelli che non servono, ma magari già negli Stati Uniti questo potrebbe accadere meno. E che cosa succederà in Cina, in Sudafrica, in Brasile? Qui andiamo incontro addirittura a quello che potremmo definire un vero e proprio specismo. Ci apprestiamo quindi a un mondo dove, altro che globalizzazione, intere zone potrebbero essere ritenute inutili e gruppi di umani potrebbero quindi vivere dei futuri completamente diversi in base a dove si troveranno a nascere e a vivere. Bene, facciamo un'altra pausa. Vi faccio ascoltare un pezzo dei Lacuna Coil, Reckless. Oh, Ed eccoci di nuovo in diretta per la terza e ultima parte di Entropia Massima. Stiamo parlando di intelligenza artificiale e di diseguaglianze. Ora è arrivato il momento di capire come possiamo prevenire la concentrazione di capitali in poche mani. Bene, la risposta breve è: regoliamo la proprietà dei dati. Vediamo bene che cosa si intende con questo. Nel nostro discorso storico abbiamo visto che in passato c'era la terra era l'elemento importante, su essa si concentravano gli interessi delle persone, si combatteva per controllare la terra, e si veniva a determinare quindi la discrasia, diciamo la forte diseguaglianza che vedeva da un lato gli aristocratici e dall'altro i comuni cittadini, i primi pochissimi, i secondi tantissimi. Nell'era moderna poi siamo passati alle macchine, alle fabbriche, che sono diventate progressivamente più importanti della terra, e quindi si combatte per controllare questi mezzi di produzione. E sappiamo che concentrando troppo i capitali in poche mani, quello che succede è che si vanno a creare capitalisti da una parte e proletari dall'altra. Bene, nel XXI secolo i dati surclasseranno sia la terra sia le macchine. E quindi oggi si combatte per controllare i dati, per controllare i flussi di questi dati. In questo caso la separazione che può avvenire è addirittura tra specie differenti, quindi abbiamo detto potrebbero crearsi dei superuomini e degli altri Homo sapiens assolutamente inutili. Abbiamo detto più volte che i giganti dei dati si stanno muovendo in maniera inesorabile. Google, Facebook, Baidu, Tencent sono i mercanti di attenzione, li definiamo così, dei mercanti di attenzione. Catturano la nostra attenzione, ci forniscono delle informazioni gratuitamente, ci forniscono dei servizi utili, molto utili, molto ben fatti, ci forniscono dell'intrattenimento. E cosa fanno? Catturano la nostra attenzione e vendono la nostra attenzione agli inserzionisti. Ma attenzione, non limitiamoci a questo, perché questo lo sappiamo che è così, sono noccioline, questo è pochissimo rispetto a quello che possono fare con i nostri dati. E più volte l'abbiamo detto in queste trasmissioni, quello che potrebbe accadere è che l'autorità verrà trasferita dagli umani agli algoritmi. Quando si parla di autorità, si parla di autorità di scegliere, di comprare cose, per esempio. E a che cosa serve in quel caso l'advertising, cioè la pubblicità? Cosa serve? Facciamo un esempio. Prendiamo Google. Google, proprio il classico esempio. Cosa vuole fare Google per noi? Google vorrebbe essere per noi uno strumento a cui noi domandiamo e lui ci dà la migliore risposta possibile. Questo è quello che vuole fare Google. Tutti gli sforzi di Google sono profusi per questo obiettivo. Allora, supponiamo che noi ci rivolgiamo a Google chiedendogli, e lo possiamo fare persino con voce naturale, come è noto. Google, sapendo tutto quello che tu sai sulle automobili, e Google sa davvero ogni cosa sulle automobili, sapendo tutto quello che sai su di me, e anche qui Google su di me sa veramente una cifra di cose, incluso anche quelle che sono le mie necessità, le mie abitudini, e quante ne sa veramente tante delle nostre abitudini, le nostre necessità. E tu Google, tu che conosci anche le mie idee, le mie idee magari sul riscaldamento globale, le mie idee politiche,